2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, benvenuti o bentornati. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook oppure su Twitter. Come sempre vi ricordo che tutte le nostre interviste le troverete nell'edizione digitale, cioè l'edizione podcast di 2024, che ormai chiamiamo Super Podcast perché sono in versione integrale tutte le nostre chiacchierate con gli ospiti che incontreremo anche in questa puntata. Alcune notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo parlando di 5G, che è l'evoluzione del 4G, quello che ormai molti, non tutti, ma molti utilizzano per i propri smartphone. Allora, TIM e la Repubblica di San Marino hanno raggiunto un accordo per creare la prima rete 5G in Europa e una delle prime al mondo. San Marino servirà da laboratorio e, per darvi un'idea su una delle caratteristiche del 5G, cioè la maggiore densità delle celle, sul territorio di San Marino ci saranno dal prossimo anno alcune decine delle cosiddette small cell, cioè antenne molto più piccole rispetto a quelle che normalmente consideriamo antenne di telefonia mobile che vediamo sui tralicci, sui pali. Queste cellette sono una specie, potremmo dire, di wifi un po' più potente del wifi, un po' meno potente di una cella tradizionale del 4G. Questa è una delle caratteristiche, perché la densità delle celle sarà maggiore, perché maggiori saranno anche gli oggetti, i terminali che si collegheranno alla rete 5G. Sempre per darvi un'idea, la capacità trasmissiva sarà di circa 10 volte superiore rispetto al 4G. Archiviati i problemi alle batterie del Note 7, perché non viene più prodotto, Samsung è pronta per lanciare sul mercato il Galaxy Note 8, che verrà presentato il 23 agosto. Vedremo quali saranno le caratteristiche, ma secondo alcune indiscrezioni, per evitare problemi alle batterie, sapete che alcuni di questi prodotti avevano avuto dei principi di incendio, alcuni erano andati un po' oltre ad un principio di incendio, per evitare questi problemi la batteria dovrebbe essere un po' più piccola e un po' meno potente. Una notizia che ci dà un'indicazione sul mercato dei cosiddetti wearable devices, cioè gli oggetti indossabili, braccialetti e altre cose. Secondo i media americani, Intel avrebbe dismesso la divisione nata per produrre chip proprio per questi oggetti, per i cosiddetti fitness tracker, cioè quelli che ci dicono quanto abbiamo corso, qual è il nostro battito cardiaco, eccetera, eccetera, e tutti gli altri strumenti che in qualche modo tracciano le nostre attività fisiche e anche lo stato della nostra salute. Ricordiamo che Intel nel 2014 credeva moltissimo in questa evoluzione, che continua ad espandersi ma non ai ritmi previsti. Ricordo che Intel nel 2014 comprò una società chiamata Basis per 100 milioni di dollari. Non avevo speso tantissimo, però comunque erano soldi investiti pensando di poter realizzare un business molto interessante. Parliamo di Netflix. Mentre in Italia il servizio di streaming per ora non sta sfondando, e secondo stime non ufficiali che ho raccolto negli ultimi mesi da vari operatori, siamo a 200-300 mila utenti abbonati. Se guardiamo però i dati mondiali appena divulgati, i numeri sono invece molto impressionanti. Nel secondo trimestre dell'anno si sono aggiunti 5,2 milioni di nuovi abbonati, facendo sfiorare a Netflix quota 104 milioni. Nel Regno Unito è stata approvata una norma che impone, o meglio imporrà, la verifica dell'età degli utenti che accedono a contenuti pornografici online. Non è ancora chiaro come questo obbligo verrà reso concreto, cioè quindi come si farà a capire qual è l'età delle persone che si vogliono collegare a questi siti internet, ma va dato atto al governo britannico di essere uno dei pochi al mondo ad occuparsi di questo problema, cioè dell'accesso a contenuti per adulti che su internet sono pressoché liberi e molto spesso gratuiti. Un'ultima notizia riguarda il mondo delle automobili. come sapete, in estrema evoluzione, e oltre a tutte le tecnologie di bordo per proteggerci dalla frenata automatica, a tutta una serie di sensoristica per mantenere la corsia, eccetera, eccetera, ci sono altre novità. Ad esempio, il 6 settembre Nissan presenterà una nuova tecnologia chiamata e-pedal sulla nuova Leaf. Allora, si tratta di un sistema che trasforma il pedale dell'acceleratore. Come funziona? Adesso lo sappiamo solo dalle descrizioni, poi dal 6 settembre in poi lo vedremo magari all'opera. Allora, schiacciando il pedale si accelera, come in qualsiasi altra automobile, rilasciando il pedale si decelera fino al punto di arrestare l'automobile quando il pedale viene rilasciato completamente. Quindi una sorta di telecomando della velocità, insomma un acceleratore evoluto. Quindi in fase di rilascio il pedale frena l'auto completamente, solo per le frenate più intense, quindi quando c'è una sorta di emergenza, di fianco c'è e rimane il pedale del freno, quindi si può utilizzare quel pedale. Però si dovrebbe fare molte cose con questo e-pedal. Adesso parliamo di robot e di smart home. Come vanno assieme queste due cose? Ce lo spiega Gianfranco Giardina. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentornati a tutti gli ascoltatori. Gianfranco Giardina è il direttore del magazine digitale del sito web dday.it, che è la principale meta tecnologica in Italia, e tu questa settimana hai concluso la settimana con una bella prova di robot aspirapolvere. Io ho detto mettiamo assieme smart home e robot perché all'interno della smart home ci stanno benissimo questi robot. Intanto spieghiamo che cosa sono. Beh, sono questi oggetti, questi piccoli oggetti che girano per casa autonomamente, dei cilindri alti circa più o meno 10 centimetri, 12 centimetri, motorizzati, che hanno la funzione di aspirare. Quindi sono degli aspirapolveri, solo che sono autonomi. E il concetto di smart, quindi anche di alta tecnologia, non è legato più solo al concetto che sono robotizzati, quindi vanno in giro, sì, rilevano automaticamente, automaticamente, poi lo spieghiamo come, sì, ma anche al fatto, a questo punto, che almeno i migliori prodotti sono anche connessi alla rete, quindi possono essere controllati da smartphone quando siamo in casa, e questo darebbe forse piccoli vantaggi, ma soprattutto quando siamo fuori casa, quindi possiamo lanciare la pulizia quando siamo fuori dai piedi, in senso stretto, fuori dalle ruote dovremmo dire, nel senso che poi questi robot sono magari anche un po' noiosi quando vanno in giro per la casa, insistono e continuano e magari ci passano lungo i nostri percorsi quando noi siamo in casa. Il momento migliore per farli andare, anche perché come tutti gli aspirapolveri sono un po' rumorosi, solo che un ciclo di pulizia di un robot può durare un'ora e mezza, può durare due ore, quindi avere anche questo rumore in casa per tanto tempo, la cosa migliore è farli andare quando siamo fuori casa. Ok, si connettono via rete wifi. Si connettono via rete wifi, quindi questo è un primo requisito. Ci vuole una rete wifi e ci vuole che la stazione base dove il nostro robot va a dormire, fa la nanna e si ricarica, sia in copertura wifi, perché se è in una zona remota della casa dove la wifi non arriva o arriva debole, può essere che io non riesca più a raggiungere il mio robot e dargli il comando di partire. Quindi la connessione wifi è della base. Poi tra la base e il robot vero e proprio... No, la connessione wifi è del robot, ma siccome il robot dorme dove c'è la base, per risvegliarlo ho bisogno che lì ci sia una wifi valida. Perfetto. Senti, se non c'è, se io in una casa non ho internet o, che ne so, alla notte spengo internet, a parte che di notte, come dire, dormiamo noi, dormono anche i robot, è meglio assolutamente che avere un robot che per un'ora e mezza pulisce casa, è un po' fastidioso. Però diciamo, funzionano anche senza internet? Funzionano assolutamente anche senza internet, ovviamente non in comando remoto dall'app. il che significa che bisogna lanciare la pulizia. Certo, nessuno vieta, come si fa con tutti i modelli non connessi, per esempio di lanciare la pulizia poco prima di uscire di casa e quindi uscire. Sì, sì, certo. Oppure anche tollerare la compresenza, diciamo, del robot al lavoro. Sì. Allora, tu hai fatto una comparativa che hai pubblicato, che appunto i nostri ascoltatori possono leggere su dday.it, con fra due prodotti top di gamma, i migliori che ci sono sul mercato. Insomma, due prodotti top di gamma e una prova molto laboriosa, perché non sono apparecchi che possono essere provati in pochi minuti. Bisogna metterli alla prova su un tempo lungo. Noi abbiamo scelto una metodologia, quindi una casa reale, una casa campione, non una stanza, tanto per vedere come va. In questa casa reale li abbiamo fatti stare per 3 settimane ciascuno, usandoli ripetutamente, quindi più volte al giorno anche, quindi stressando molto l'utilizzo rispetto a quello che magari si fa nei casi reali, e arrivando a delle conclusioni molto importanti su due cose, sia sull'utilità e sui campi di impiego di questi apparecchi in generale, e sia ovviamente su tutti i vari aspetti, chi è meglio di questi due che abbiamo provato. Sì, sì. Però diciamo, al di là di chi è meglio, poi quello, uno si va a leggere. Cioè, la prova è molto lunga, sì, può sì. essere letta. Sono un Roomba e un Vorwerk, folletto. Un folletto, quindi sono due prodotti top di gamma, il Roomba 980 che è appunto il top di gamma della gamma iRobot, che forse l'azienda che più di tutti ha insistito su questi aspetti. Sì, tra l'altro, quando si dice la ricerca militare favorisce poi tutta una serie di altre tecnologie, Roomba è un produttore, e ancora oggi è nato come produttore di robot per andare a disinnescare le bombe. Come tante cose negli Stati Uniti sulla robotica, è una società che è nata in seguito a un concorso DARPA, quindi sì. dell'agenzia americana per la robotica, che è comunque collegata alle applicazioni di tipo militare. Sì. Non a caso uno dei robot di maggior successo di iRobot è un piccolo robot artificiere che viene usato dalle forze armate, è stato usato anche in campo su teatri di guerra. Una cosa che va detta è che non ci sono solo robot da casa che spolverano, cioè che aspirano la polvere. Ci sono anche quelli che fanno altro tipo di pulizia, cioè ad esempio che lavano i pavimenti invece di dare lo straccio, no? Assolutamente sì. Se possiamo avere un robot, e assicuro che sono macchine molto sofisticate, anche sotto il punto di vista della sensoristica. Ecco, se possiamo avere un robot in casa noi a qualche centinaio di euro, magari anche un po' di più, anche vicino al migliaio, ma comunque a prezzi in ogni caso accessibili per una famiglia, è facile pensare che per applicazioni poi industriali quanto le stesse tecnologie siano già di fatto applicate. Sì, sì. Non costano poco, Beh no, non costa, quindi i modelli che abbiamo provato costano dai 750 euro per il folletto VR200 ai 1000, poco più di 1000 per il Roomba 980. Quindi sono prezzi importanti. Va detto che la tipologia del robot connesso, mentre prima relegata proprio solo ai top di gamma, adesso si sta spingendo all'interno della gamma. Quindi sono già arrivati diversi modelli non più top di gamma ma un pochino inferiori, magari perdono qualche funzionalità ma non così importante, ma che offrono la connessione via app, che a nostro giudizio è una cosa assolutamente qualificante. Cioè il robot prima della connessione via app era un altro prodotto, un prodotto molto più scomodo. Basti pensare che si poteva fare la programmazione settimanale, quindi dire tutti i lunedì alle 10 tu pulisci. Parti. Era difficilissima comunque da impostare, ancora complicata da impostare sugli apparecchi non connessi, mentre sugli apparecchi connessi si fa direttamente sull'app. E poi cosa succede? Arriva sempre il lunedì, 1° maggio, che è festa, che siamo a casa e tu ti trovi il robot che parte, magari stavi dormendo beatamente. Sì. Ecco, quindi anche queste programmazioni rigide rendevano il prodotto non così intelligente. Sì, sì, sì. Ora finalmente è intelligente sia nei movimenti in casa che nella programmazione e nell'utilizzo. Come puliscono? Perché poi questa è la domanda delle domande. Mm. Allora, la domanda delle domande è chi pensa che di comprare un robot aspirapolvere e di non fare più le pulizie sta sognando? È una cosa che non esiste. Un robot non sostituisce le pulizie che noi facciamo in casa, che gli umani fanno in casa. Questa potremmo inserirla nel dibattito tra le macchine sostituiscono gli uomini. Quindi uno dice, ma perché devo comprare il robot aspirapolvere? Ebbene, nella seconda parte della frase, cioè non sostituisce la pulizia, però chi pensava di pulire casa propria a mano scoprirà che non l'ha mai pulita o non l'ha mai pulita abbastanza. Ecco, questo è il secondo ecco. punto. Perché quando noi abbiamo fatto questa prova, abbiamo pulito la nostra casa a mano, in maniera tradizionale, e anche col nostro aspirapolvere tradizionale. Abbiamo passato lo straccio, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Poi abbiamo preso un robot completamente vuoto, quindi col serbatoio vuoto, e l'abbiamo fatto partire. L'abbiamo fatto fare due volte tutta la casa. Pulire sul pulito, in teoria. In pratica, guardando il gomitolo di lanetta, polvere, capelli, detriti, briciole, eccetera, eccetera, la nostra casa non era affatto pulita. Quindi è un altro livello di pulizia. Perché? Perché i robot hanno queste spazzoline rotanti che si ficcano praticamente in ogni interstizio lungo, per esempio, il perimetro. Per esempio, abbiamo visto dal tipico zoccolino della cucina uscire delle briciole perché la spazzolina è andata leggermente sotto a prenderli, dove magari sicuramente non saremmo mai arrivati con metodi manuali, perché va anche negli angoli dove magari c'è buio, c'è meno luce, dove non si vede lo sporco e quindi giustamente non si pulisce. Da questo punto di vista il robot è un po' più agnostico, lui piglia e va dappertutto, sì, sì, e sì. Quindi alla fine la casa è molto più pulita. Questo vale per case facilmente sporchevoli, quindi per esempio quelle che hanno degli animali in casa, per esempio semplicemente il pelo, sì, del cane, oppure del gatto, un cortile, quindi vanno avanti cortile, e dietro casa, per sì. esempio, oppure vale vie più per chi ha per esempio dei bambini. Non che chiaramente i bambini ovviamente richiedono l'igiene, ma anche gli adulti lo richiedono, ma soprattutto i bambini tengono spesso le mani per terra, gattonano sì. quando sono piccoli, e da questo punto di vista quel tipo di igiene del pavimento mm-hmm. è sicuramente una cosa importante. Ultima cosa, abbattendo il pulviscolo che è in circolazione, cioè quando noi passiamo la scopa, una parte, quella più pesante della polvere, la raduniamo, ma tutta l'altra la facciamo volare. Ecco, quella polvere che vola è il maggior vettore poi di contaminazione, diciamo di diffusione banalmente di piccole malattie, come non so, l'influenza, cose di questo tipo. Ecco, abbattendo il pulviscolo, oltre a tutti, chiaramente a diminuire i problemi per gli allergici, sì, sicuramente chiaro. Abbiamo anche una sanificazione dell'ambiente più ampia. Se tu dici che, cioè, di fatto ci stai dicendo che puliscono molto bene. Puliscono molto bene. Perfetto. Allora, a questo punto bene. Però quando tu a secco dici... però, questi a secco, sì. aspirano molto sì, sì, bene. Sì, sì, sì. Ecco, cioè, certo, quindi un certo tipo di macchie non lo raccolgono, no. non lo puliscono. Però a questo punto per quale motivo tu dici comunque bisogna fare le pulizie? Perché almeno diciamo, l'aspirapolvere e la scopa uno potrebbe a questo punto dimenticarsele. Perché in alcuni frangenti si fa prima, magari, se ad esempio ci casca qualche cosa in bagno, e sì, la sì, stazione certo. base del robot è dall'altra parte della casa, non devo neanche prenderlo in braccio, portarlo lì, prendo, tiro su e finisce. Ma allora, noi abbiamo fatto anche un esperimento. Abbiamo smesso di usare scopa e paletta in cucina. E a fine della cena abbiamo scosso sempre la tovaglia per terra. E poi siamo usciti dalla cucina chiudendo la porta e facendo partire il robot che partiva da uno sgabuzzino vicino alla cucina. Ecco, quando il robot finisce, ci mette circa 20 minuti a fare tutta la cucina, quindi non poco, ma quando finisce la cucina è perfetta. Quindi mai una volta abbiamo trovato né con un modello né con l'altro delle briciole residue in giro, anche quando magari il pane utilizzato sì, era sì. particolarmente friabile, quindi le briciole erano molte. segno che evidentemente questi apparecchi possono essere usati proprio anche in sostituzione della scopa della paletta, anche per applicazioni di questo tipo. Quindi uno può dimenticarsene almeno quelle. Almeno quelle sì, però certo è che alcune pulizie che vanno fatte quantomeno a umido e quelle periodiche, certo, quelle lì non vengono sostituite. Ecco, adesso attendiamo la puntata numero 2 o numero 3, non so quale sarà, di quelli che invece lavano, perché ci sono anche i lavapavimenti, però quello è un altro capitolo. Sono anche i lavapavimenti che vivono un piccolo limite, che è la quantità d'acqua che utilizzano, certo, ovviamente contenuta, perché se la portano in giro. Senti, come fanno a sapere dove devono andare? La casa non è mica facile, poi ci sono i tavoli, i mobili. Allora, i due modelli che abbiamo provato hanno strategie un po' diverse, però la sostanza è che innanzitutto sono pieni di sensori. Il modello folletto ha addirittura un sensore laser, una torretta dalla quale fa una scansione laser. Ha tre sensori a ultrasuoni di prossimità, per cui quando va incontro a un ostacolo si ferma praticamente a un millimetro dall'ostacolo e poi torna indietro, proprio neanche lo tocca, e poi gli gira attorno con una precisione millimetrica. Hanno dei sensori di contatto, quindi se per caso toccano qualche ostacolo si ritraggono immediatamente. Il Roomba ha anche una telecamera con la quale mappa il soffitto, quindi riprende il soffitto, questo per orientarsi meglio. Sul soffitto noi magari non ce ne accorgiamo, ma ci sono i lampadari, ci sono degli altri segni, cambia la finitura del soffitto, si riconoscono le soglie, e quindi lui attraverso questa telecamera riesce a mappare meglio la sua posizione. Ci sono anche, sempre a Roomba, per esempio un sensore sul fondo che scandisce il pavimento e riconosce innanzitutto il pavimento, quindi riconosce anche i salti di stanza e cose di questo tipo, e riconosce anche la tipologia del pavimento, la porosità. Per esempio, quando scopre di essere su un tappeto, aumenta fortemente e automaticamente la potenza aspirante. Quindi ecco, ci stai dicendo che i tappeti comunque non sono un problema. Allora, i tappeti sono un problema solo in un caso, quando sono molto leggeri, molto spessi e molto poco fissati al pavimento. Si spostano, nel nostro caso, il classico tappetino del bagno, che è infido anche per gli umani in realtà, si inciampano facilmente, normalmente diventano un ostacolo difficilmente superabile per robot, che spesso c'è successo, sia l'uno che l'altro resta incastrato e manda una notifica sullo smartphone chiedendo aiuto. Ecco, parliamo anche di questo aspetto, cioè di come viene gestita la connessione e soprattutto di come lavorano. Cioè, tu ci dicevi, ad un certo punto tu puoi decidere di lanciare, lo puoi fare anche in automatico, cioè puoi dirgli tutte le mattine ad una certa ora parti. Allora partono, dicevo, strategie un po' diverse. Il folletto fa tutto il perimetro della stanza, ha una funzione molto interessante per cui riconosce le soglie. Sì, tutto il perimetro, ma anche poi dentro. Parte dal perimetro, quindi capisce com'è il perimetro della stanza e poi incomincia a lavorarlo all'interno. Il Roomba un pochino diversamente, dicevo, il folletto riconosce le soglie, questo è molto bello, nel senso che quando vede un passaggio che però è limitato a 80 cm, un metro, non lo valica, prima finisce la stanza, cioè dice questa è una porta, la sua piccola intelligenza, e finisce quella stanza e poi va oltre. E entrambi questi robot partono nella funzione più classica, quindi pulizia di tutta la casa, o comunque di tutta la casa raggiungibile per loro. Chiaro che noi possiamo confinarle anche chiudendo le porte, volendo, ma e loro non le valicano, questo è un dato di fatto, ma loro puliscono fino a che hanno carica di batteria. Dopodiché, qualcuno dice, dopodiché si abbandonano al loro destino e chiedono aiuto. No, dopodiché, quando capiscono che l'autonomia è sufficiente giusto per tornare alla base, intraprendono il viaggio per tornare alla base. Loro chiaramente sanno che strada hanno fatto, quindi sanno ricostruirla a ritroso. Tornano alla base e si rimettono in carica. Si aspetta circa un'oretta che la batteria si ricarica e dopodiché ripartono, ovviamente ripartendo da dove avevano interrotto, quindi molto velocemente si recano in quel posto lì, e queste vanno avanti così a ciclare finché non hanno finito. Certo. Potenzialmente, se non trovano nessun ostacolo che li blocchi, potrebbero andare avanti per ore, per giorni. Per certo. Giorni. Scusa, giusto per capire, un taglio di casa di 80-100 metri, quindi con 3, 4, 5 stanze, e in quanto tempo lo puliscono? Allora, diciamo che una casa di un centinaio di metri può essere pulito anche in un turno, chiamiamolo così, quindi in un giro di batteria che a seconda dei modelli viaggia tra l'ora e l'ora e mezza. Se però la casa è particolarmente composita, un po' difficile, con tante sedie dove il robot deve girare attorno, può essere che il turno debba essere raddoppiato, quindi in due turni. Però, ripeto, fossero anche cinque. Certo, il robot casa, deve sì, lavorare sì, quando noi non siamo sì, in casa, sì, è per questo che dicevamo che l'app è molto importante. Se ci sono dei gradini, però a salire non salgono, a salire non hanno non... le zampe. Parliamone anche, per esempio la Roomba. Ci mette tanta energia, non è che cioè, se il gradino vada è piccolo cerca di salire, ah, riesce a scavalcare piccoli ostacoli, però le scale cioè, no, le scale no, di certo è... e comunque nessuno dei due robot è stati, ma direi ormai nessun robot si suicida, cioè non cade buttando, no non va giù per le scale, assolutamente hanno un sensore, non appena manca il primo pezzo di pavimento sotto di loro frenano immediatamente, retromarcia e tornano indietro, e lo giudicano come un limite. Dopodiché si può anche limitare l'area operativa con altri strumenti tipo? Che sono in dotazione. Beh, allora anche qui strategie diverse. La Roomba, per esempio, offre nella confezione due, chiamiamoli radiofari, sono due oggettini, due barattolini che vanno a batterie e che possono essere messi, per esempio, su una soglia. Che noi oppure in un punto dove noi non vogliamo che il robot passi, cioè una soglia invalicabile, ovviamente valicabilissima per gli umani, ma viene emesso un raggio che viene appunto catturato e percepito dal robot, che vede come se fosse una parete e quindi oltre non va. Oppure lo stesso barattolino può essere usato come un repellente, chiamiamolo così. Quindi supponiamo che abbiamo di avere un vaso delicato, dove non vogliamo assolutamente rischiare che il robot vada a fare tentativi di pulizia, piuttosto che la classica ciotola del cane con l'acqua, che magari è così leggera che poi viene spostata dal robot. Ecco, noi basta mettere uno di questi radiofari configurato come repellente in un raggio di 60 centimetri, il robot non si avvicina. Bisogna progettare anche questa parte, quindi la smart home ha una parte, ma l'abbiamo già detto più volte, di progettazione, cioè comunque tu devi andare a mettere il radiofaro, cioè che è una cosa. Ma un po'... diciamo che la cosa più difficile nella progettazione è stabilire dove mettere la base, perché non è così. Ah, la base dove torna il robot, sì, cioè la base di ricarica vive... perché poi lui vivrà lì, sarà a casa sua. Allora noi, per esempio, la puoi nascondere sotto un mobile. Ho pubblicato anche sotto... una foto, ecco, noi abbiamo identificato un punto in uno sgabuzzino vicino alla cucina, perché poi magari il posto giusto c'è, ma è dall'altra parte della casa di quella che viene normalmente sporcata, quindi il robot in cucina magari ci arriverebbe poi molto tardi, quindi è bene averlo vicino all'area, ma in un posto che sia sufficientemente nascosto, perché diciamocelo, quando dorme il robot non è prettamente estetico, è un oggetto appoggiato al pavimento. Quindi tu non gli puoi dire, cioè se la base la posizioni lontana dalla cucina, non c'è un modo per dirgli vai a pulire in cucina. No, per due motivi. Il primo che la modalità di funzionamento è sempre quella esplorativa partendo dalla base. Quindi, e poi sono robot smemorati. A fine di ogni ciclo dimenticano la casa, in realtà. Potrebbero partire... Non hanno una mappa. No, ce l'hanno. Ah, ce l'hanno. Mentre la fanno. Però se non gliela puoi dare. La salvano, per esempio, sull'applicazione del Roomba, si vede proprio graficamente la mappa dell'area coperta, vedendo anche i punti dove magari non è riuscito ad arrivare perché ha trovato un ostacolo, un tappeto, una valigia che era appoggiata per terra e quindi lì non è potuto passare. Ma te lo dà come report della pulizia fatta, ma dopodiché se lo dimentica, perché oggettivamente è anche vero che se no si confonderebbe, perché il robot è vero che parte normalmente sempre da lì, ma potrebbe anche essere spostato, potremmo anche cambiarlo di casa per una volta per fare la pulizia dal nostro vicino, se lui applicasse la stessa mappa andrebbe magari a sbattere, a prendere a testate un muro convinto che lì ci sia un passaggio, sì. Ogni volta lui riesplora la casa come se fosse la prima, ogni volta è come se fosse la prima volta, che è sempre anche una cosa anche un po' romantica. sì certo, però immagino che la prossima generazione o non so quale generazione di robot sarà un po' più intelligente, magari con una mappa che tu potrai addirittura fornire e magari con qualche indicazione. Volevo farti una domanda sul consumo. Consumano, cioè è trascurabile il consumo o invece è una cosa di cui occuparsi comunque? Ma allora, partiamo dal dire che gli apparecchi che abbiamo provato hanno una batteria agli ioni di litio, quindi una batteria importante. E la grande differenza di costo rispetto ad altri modelli, dicevamo il prezzo è alto, è proprio lì, perché parliamo di batterie importanti, non la batteria di uno smartphone, cioè una batteria ovviamente più potente, fa girare un aspirapolvere per un'ora e mezza. Sì, ecco, sì, c'è un motore, poi i motori sono potenti, non sono mica cose... No, i motori sono potenti perché devono aspirare molto e molto bene, sì. Hanno poi dei rulli. Il consumo, sì, non l'abbiamo valutato, abbiamo valutato la rumorosità, abbiamo valutato altre cose. Io mi sento però di poter dire che rispetto a mille altre cose che abbiamo in casa, il consumo è trascurabile, cioè probabilmente contano di più 10 minuti di phone, tanto per fare un esempio, o il forno per scaldare il pane, piuttosto dell'ora e mezza di robot che gira per la casa. Si vuotano come? Cioè quando avranno un sensore che dice guarda che sono pieno di polvere? Sì, diciamo che vanno svuotati manualmente, questo assolutamente sì. Ci sono delle... Ma spesso posso farlo raramente? Ma ogni decina, quindicina di cicli. E chiaramente più lo si svuota, come tutti gli aspirapolveri, più efficiente resta. Non ha sacco, quindi ha un contenitore che viene svuotato direttamente nella pattumiera, però ha un filtro, questo sì, e il filtro tende a radunare presso la sua superficie un materassino di polvere che lo rende meno efficiente. Quindi se la si pulisce più spesso, meglio è. Il folletto ha una caratteristica particolare che può piacere o può sembrare, come sembra un po' a noi, un po' diciamo, ci piace perché è una specie di frattale, ma non è così intelligente forse, è il fatto che si possa anche pulire inserendo in un apposito foro un altro aspirapolvere, cioè un aspirapolvere padre di quelli tradizionali che col tubo aspira il contenitore dell'aspirapolvere figlio. Questo è fatto nella logica della famiglia di prodotti della stessa marca. Certo, ecco, però diciamo che la cosa più semplice è prendere e svuotare il contenitore. Bene Gianfranco, ricordiamo che costano tra i 7-800 e 1000 euro. Questi modelli che abbiamo provato, uno 750, il folletto, e uno intorno ai 1000 euro. È che non è comunque un prezzo popolarissimo, però ricordiamo che ci sono anche tanti altri modelli di altre marche che costano fino a, diciamo che i modelli più economici costano 200-300-400 euro. Sì, 300-400 euro. Va detto che se si va sul troppo economico, che cosa cominciamo a vedere? Batteria non agli ioni di litio e quindi durate molto ridotte, quindi macchine adatte per esempio a farsi una stanza, la cucina, ma non certo andarsene in giro per la casa troppo a lungo, algoritmi un pochino meno intelligenti, sensoristica meno sofisticata e quindi diciamo che gli ostacoli non vengono più evitati, ma vengono insomma colpiti pur con la giusta delicatezza e poi il robot torna indietro e quindi macchine ovviamente che non hanno la stessa livello di tecnologia e poi certamente nei modelli entry level non c'è la connessione wifi e la controllabilità via app che a nostro avviso è veramente invece l'elemento qualificante. Se devo pensare a un elettrodomestico connesso, e oramai ci sono tutti gli elettrodomestici connessi, non mi viene in mente uno che meriti più del robot la connessione. Sicuramente più del forno, più del piano cottura, più della lavatrice, più della lavastoviglie, più del frigorifero. Cioè quello che noi possiamo fare lanciando un lavaggio di lavatrice dall'ufficio, sì, ma dobbiamo averla caricata, dobbiamo aver messo il detersivo, cioè non è la stessa cosa. Il robot è sempre pronto. In questo momento io potrei prendere, mentre stiamo parlando qui, e dire non ho fatto partire il robot, fammelo partire. Cioè, prima chiama a casa a vedere se c'è qualcuno. Ma al massimo lo sanno che accendo cose da remoto. Bene, grazie a Gianfranco Giardina, a presto, ciao. Grazie mille. Bentornati, io sono Enrico Pagliarini, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica in replica tra le 13.30 e le 14. Come sempre vi ricordo che trovate tutte le nostre interviste in versione integrale nell'edizione podcast che abbiamo ribattezzato Super Podcast, il Super Podcast di 2024. Adesso parliamo di automobili, perché grazie o a causa della tecnologia stanno cambiando e cambieranno moltissime cose. Saluto Pepe Moder, bentornato a 2024. Grazie Enrico. Pepe Moder è uno dei docenti ai Master Digital del Sole 24 Ore. Dico Master Digital perché ce ne sono una serie, giusto? Sì, in tante materie. Tante materie che raccontano come cambiano la trasformazione digitale delle aziende e non solo delle aziende. Questa settimana abbiamo deciso di parlare, di riparlare di automobili, perché stanno cambiando molte cose. Tutto grazie alla tecnologia, cioè grazie a, possiamo dire, agli smartphone. Grazie alle piattaforme che sugli smartphone trovano il loro terreno naturale di sviluppo e di utilizzo. È sempre più facile trovare servizi di mobilità che attraverso lo smartphone, attraverso un iPhone, un Android, un qualsiasi telefono ormai evoluto, ti permettono di muoverti in maniera semplice, di organizzare i tuoi spostamenti sia nel breve, nei brevi tragitti, quindi all'interno della città, sia nei lunghi tragitti, con passaggi semplicissimi e a costi assolutamente irrisori, in maniera estremamente più efficiente rispetto al guidare un'automobile e sicuramente anche molto meno pericolosa e molto meno stancante. Sì, tutto questo si lega anche a un rapporto diverso che cominciamo ad avere, o comunque uno strato della popolazione comincia ad avere con l'automobile. Eh sì, stanno cambiando i comportamenti, perché stanno cambiando i bisogni delle persone. Le piattaforme tecnologiche abilitano le persone a pensare e ad agire in maniera diversa. Noi esseri umani ci abituiamo abbastanza facilmente alle novità e poi diventano, come dire, diventano delle routine e quindi diventa normale comportarsi in un certo modo. Questa è la grossa differenza dei millennial, cioè dei ragazzi giovani, i quali non hanno più quel desiderio di acquistare un'auto in quanto, come invece i ragazzi della nostra generazione, la vedevano come un simbolo di libertà, di potersi muovere. Oggi muoversi è molto più facile, sia per andare all'estero, sia per muoversi all'interno dell'Italia, sia per muoversi all'interno di una città. Quindi non è più necessario avere, possedere l'automobile. Tant'è che appunto si prevede che nel giro di pochi anni il 20% della popolazione dichiara oggi, la popolazione adulta dichiara oggi che non sarà interessata ad acquistare l'automobile, perché esistono talmente tanti e tali servizi, applicazioni sul proprio smartphone che ti permettono di muoverti e di poter noleggiare per esempio un'automobile, di poter prendere un passaggio o dare un passaggio. Poi vedremo più nello specifico. Ma è cambiato anche il modo in cui si compra un'automobile. Quell'80% di cui abbiamo citato prima si sta comportando in maniera totalmente diversa. Cioè quell'80% che dice comunque la compro. Comunque la compro, sì. Come si sta comportando? Fino a 20 anni fa la media di visite in una concessionaria prima di acquistare un'auto era 5,4-5,5. Oggi è crollata a 1,5. Cioè in questi 20 anni andiamo sempre meno in concessionaria. Sì, perché? Perché da una parte le informazioni noi le raccogliamo su internet, ci sono i configuratori sui siti delle case auto, ma soprattutto ci sono dei servizi che ti aiutano a comparare. DriveKey, per esempio, che è una bellissima realtà italiana. Sì, che abbiamo intervistato anche. Che è stata intervistata a 2024 e che peraltro una startup che tra l'altro sta crescendo molto bene, ha un obiettivo, come dire, di molto importante, se vuole espandere all'estero, è già presente in 4 paesi. Ti dà una piattaforma dove tu puoi configurare più auto di più marche, di più modelli e vedere subito le differenze. Da lì ovviamente tu arrivi in concessionaria già con delle idee e delle informazioni e spesso i consumatori, l'acquirente finale, ne sa più, informativamente parlando, del venditore. Sì, questo vale per molti altri settori. Certo. Complici anche i concessionari stessi, perché l'esperienza di molti, non dico di tutti, è di andare in un concessionario e di uscire chiedendosi: ma questi vogliono vendere automobili o vogliono farmi un favore? E questo è uno dei problemi. Fatevi delle domande, datevi delle risposte, cari concessionari. Poi ci sono anche quelli smart che hanno capito, ma devo dire che sono pochi. Pochi. Quindi sicuramente nei prossimi anni vedremo sempre meno concessionari a causa di quello che tu hai raccontato. O cambieranno semplicemente, sicuramente saranno meno, sì. Ma cambieranno anche le loro funzioni. Magari non saranno più, come dire, dei concessionari all'interno di mura fisiche, ma si muoveranno e porteranno le auto dove già le persone sono. Quindi immaginiamoci un modo diverso di acquistare l'auto, dove io vado sul sito della casa auto, mi prenoto il mio test drive o la mia visita e mi portano l'auto a casa, oppure me la portano nel centro commerciale dove normalmente una volta alla settimana io vado a fare la spesa o dove vado al cinema. Quindi unisco due esperienze. Ecco, il concetto di esperienza è molto importante. L'abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo ancora, oggi noi consumatori non compriamo più un prodotto, un servizio, ma compriamo un'esperienza. E questo è un elemento estremamente importante. Sì. Tu credi, tu di auto insomma, hai una ricca esperienza, tu credi o i dati di cui che tu hai a disposizione ci dicono che la vendita di automobili sarà... anche online, e i numeri delle vendite di automobili online saranno importanti o rimangono già oggi ci sono siti internet che vendono automobili online? C'è uno studio di Capgemini ogni anno proprio sull'automotive, estremamente importante, che ultimamente riporta che il 47% delle persone sono disposte già oggi a comprare un'auto online. In Italia ci sono già due esempi. Un esempio è di Smart, che vende online. Smart, Mercedes, il mercato italiano è il mercato più importante per Smart al mondo, e il 40% delle Smart italiane sono vendute a Roma. Pensa un po', non lo sapevo questo. Diciamo comprensibile. Che, sì, comprensibile, sì, dal traffico, sì, dalla, sì, difficoltà, sì, del traffico. I venditori di auto delle Smart sono estremamente contenti dei risultati che stanno ottenendo. L'automobile la questo puoi... è un esempio. Il secondo esempio invece è su Amazon Fiat, che vende le automobili. Sono delle automobili preconfigurate, quindi non puoi sceglierti esattamente l'automobile che vuoi, ma hanno degli sconti estremamente importanti. Ora, è ovvio che è più un problema di chi vende che non di chi compra. Chi compra è già pronto, perché se ci stiamo dicendo che quando arrivo in concessionaria praticamente ho già deciso che cosa voglio comprare, in realtà non è più un problema del che auto voglio scegliere, ma datemi quello che io voglio acquistare. Quindi è un problema del chi vende, che si deve attrezzare per fare in modo, ovviamente, da una parte di non trovare migliaia di concessionari a piedi e dall'altra parte ovviamente di avere dei processi che ti permettono ovviamente di poter portare l'automobile in maniera sicura e in maniera certa a chi l'acquista. Allora, a fianco a noi c'è Sabrina Vinella, che è uno dei fondatori, una delle fondatrici di Zego. Adesso ci racconta lei che cos'è. Benvenuta. Grazie. Che cos'è Zego? Scritto così, pronunciato così. Zego è un'applicazione di carpooling urbano, sostanzialmente permette di mettere in contatto chi è in giro in auto, in città, e ha dei posti liberi che vuole condividere con chi invece deve spostarsi in città, non sa come farlo, cerca una modalità comoda e quindi chiede un passaggio salendo in macchina di chi appunto condivide i posti che ha a disposizione. Si fa tutto tramite smartphone? Tutto assolutamente tramite smartphone. Gli utenti della community sono registrati, quindi attraverso la registrazione, attraverso la geolocalizzazione, noi garantiamo ovviamente la sicurezza del passaggio. È un'idea che è nata guardando un po' quello che accade proprio nelle nostre città. Di fatto, in media, nelle medie grandi città italiane ci si sposta 3 volte al giorno. E ancora oggi, nonostante le cose stiano cambiando, ancora oggi la maggior parte degli spostamenti è effettuata con l'auto propria, con tutta una serie di conseguenze sul traffico. Considerate poi che l'altro dato, che secondo me è quello più interessante, che fa più riflettere, è che l'89% delle auto che sono in giro sono con una sola persona, il guidatore, quindi hanno una quantità di posti che, se riproposti sul mercato, potrebbero effettivamente ridurre di conseguenza tantissimo il traffico. Pepe? Teniamo presente che il 95% del tempo di un'auto è passato fermo, parcheggiato o sulla strada o in garage. Si muove solo per il 5% del tempo. Sì, sì, quindi uniamo questi due fatti. Cioè, uno, che molte auto che si spostano, cioè l'89%, pazzesco, 9 auto su 10 hanno... Beh, poi che ci vuole lo studio, basta andare in città e guardarsi attorno. E il secondo, che molte automobili sono ferme. Sabrina, questo servizio intanto dove è attivo? Perché è un servizio che già funziona da tempo. Sì, sì, è un servizio che funziona. Abbiamo lanciato ad aprile 2015, partendo ovviamente da Milano, e poi abbiamo lanciato l'anno scorso la città di Torino, e ovviamente vogliamo espanderci in tutta Italia, peraltro non solo nelle grandi città. Ci sono moltissimi comuni minori che ci chiedono di portare il servizio da loro, perché di fatto è un servizio che complementa assolutamente il trasporto pubblico. Quello che noi vediamo è che poi è un servizio molto flessibile che cambia a seconda delle città. In una città come Milano, dove c'è un servizio di trasporto pubblico obiettivamente molto efficiente, una rete di metro che copre in modo capillare tutta la città, Zego viene utilizzato soprattutto per spostamenti legati al tempo libero, prevalentemente la sera, quando magari il servizio pubblico è meno disponibile, oppure viene percepito meno sicuro, perché magari una ragazza che deve tornare dalla discoteca la sera preferisce farsi accompagnare da una persona che è tracciata da una piattaforma piuttosto che tornare con la metro. Certo, allora, sono 45.000 gli iscritti a questa piattaforma tra Milano e Torino. Abbiamo detto che tutto funziona tramite app. Quanto costa? Cioè, spiegaci anche qual è il vostro modello di business. Noi prendiamo una commissione del rimborso che driver e passeggero si scambiano per il passaggio, una commissione del 15%, quindi chi dà il passaggio e chi lo prende si accordano sull'importo del rimborso delle spese, e di questo importo noi teniamo un 15%. Si accordano o comunque la piattaforma dà un suggerimento? La piattaforma suggerisce, poi il passeggero dà il suggerimento, fa la sua proposta, e al termine del passaggio il conducente, se ha sostenuto delle spese inferiori rispetto alla proposta del passeggero, riporta l'importo alle spese che ha effettivamente sostenuto. Pepe? Che differenza c'è tra Zego e Uberpop? Uberpop alla fine si proponeva proprio di fare questo, no? Uberpop che è vietato in Italia. Che è vietato in Italia, che è chiuso, però mi sembra molto simile, no? E quindi come ha fatto Zego a superare la barriera legale? Beh, allora c'è una differenza sostanziale. Uberpop aveva delle tariffe e peraltro quando il conducente accettava una richiesta di spostamento non aveva assolutamente idea di dove il passeggero doveva andare. Zego invece nasce proprio sulla base della condivisione di un percorso comune, quindi il passeggero indica da dove parte ma anche dove deve andare, quindi chi vede la richiesta può valutare se quel percorso è coerente con il percorso che lui stesso sta facendo. E peraltro non esistono tariffe, come abbiamo detto prima, c'è un rimborso che l'applicazione propone, ma poi in realtà il passeggero lo può variare come ritiene più opportuno, facendo la sua proposta su quanto è disposto, come è disposto a partecipare alle spese del passaggio. Ed è vietato per i conducenti prendere importi che siano superiori alle spese che hanno sostenuto. Quindi Zego, proprio perché è una realtà totalmente italiana, è stata pensata a monte in una logica che potesse essere coerente con le regole che oggi esistono in Italia. Esistono cose simili all'estero? Allora, diciamo che il mercato di riferimento per noi è quello degli Stati Uniti, dove sono partiti ovviamente prima che in Italia. C'è una realtà molto grossa che si chiama Lyft, che è partita con un modello molto simile al nostro, meglio, noi abbiamo mutuato il loro modello. Nel tempo si è ovviamente evoluta, anche perché è stato un fenomeno molto importante che ha anche guidato dei cambi a livello regolatori, e quindi poi si è evoluto molto. Tenete presente che oggi il mondo del carpooling in tutta Europa è assolutamente incentivato, perché indubbiamente comporta, esatto, però non è regolamentato in modo preciso. Vabbè, questo può essere un vantaggio dal vostro punto di vista, no? Beh, una differenza con Lyft è che Lyft in realtà è una piattaforma che fa generare business a dei driver, a dei guidatori improvvisati. Vi faccio un esempio: ad Austin, durante South by Southwest, che dura 15 giorni, ci sono persone che vengono da Dallas o da Houston proprio per dare passaggi e fanno $250-300 al giorno. Per un periodo Lyft è stato vietato dalla comunità di Austin, quindi dalla municipalità di Austin, tramite un referendum, è stato poi reintegrato quest'anno come servizio urbano. La grossa differenza è che non si parla di rimborso spese, ma lì si parla proprio di tratta. Sì. Quello è un servizio taxi, diciamo. Sì, questo è invece è una cosa diversa. Così come BlaBlaCar sulle lunghe distanze, la differenza è quella. Tra l'altro voi non siete in competizione con BlaBlaCar, cioè BlaBlaCar non fa i tragitti urbani, comunque non è specializzato in quello. No, assolutamente no, loro si sono specializzati sulle lunghe distanze. Direi che anzi chi usa BlaBlaCar sui lunghi percorsi è molto probabile che sia poi un utente del carpooling in città, proprio perché ha quel mindset per cui si sposta o sui lunghi percorsi o sulle brevi distanze chiedendo un passaggio in giro attraverso le piattaforme, sì, che lo abilitano a questo. Sì, sì. Oh, tutto questo si inserisce all'interno di una serie di cambiamenti che sono stati stimolati e favoriti dalla tecnologia, soprattutto dalla disponibilità degli smartphone con i quali si geolocalizzano le persone che si muovono, e nel vostro caso si geolocalizzano anche le automobili che si spostano da un punto all'altro. Dicevo, all'interno di una serie di cambiamenti che si vedono in molte città, Milano soprattutto, ma devo dire anche a Roma, la più grande città in Italia, pensate al car sharing. Milano è piena di car sharing, così anche Roma e altre città, non solo. Bike sharing, biciclette condivise, e nei prossimi mesi, l'abbiamo detto anche 2024, vedremo delle novità che riguardano le biciclette condivise non più solo attraverso stazioni fisse, ma biciclette che possono essere prese, mollate, lasciate in qualsiasi posto della città, geolocalizzate con un GPS e una connessione ad internet. Motociclette, e devo dire che in questo caso Roma batte Milano, perché a Milano non c'è un servizio di moto sharing, ne partirà uno nuovo a settembre, ma a Roma ci sono almeno tre, mi sembra, competitor, vero Sabrina? Di moto sharing. Ah, allora a Roma ci sono due realtà, una che fa scooter sharing Zigzag e un'altra che invece offre un servizio simile al nostro, però con passaggi in scooter, che si chiama Scooterino. Quindi e sicuramente e poi c'è un terzo che mi sembra che stia partendo. Esatto, e poi c'è un terzo Mimoto che partirà credo in autunno. E Roma ovviamente si presta molto anche allo scooter per questioni climatiche. Allora ce n'è un quarto, perché c'è anche Ecoltra che ha servizio di motociclette elettriche, che è partito recentemente. Pepe, volevi aggiungere qualcosa? Sì, il fatto che per poter fare in modo che queste piattaforme funzionino ci vuole fiducia. La fiducia ovviamente reciproca di chi guida e di chi prende il passaggio. Oggi la fiducia è costruita grazie ai feedback che le persone lasciano sulle piattaforme. Sono andato ho preso un BlaBlaCar, un BlaBlaDriver che mi ha portato da Torino a Milano, alla fine lascio il mio feedback. Un domani i profili dei guidatori e delle automobili saranno costruiti grazie ai dati che le automobili producono. Questo perché? Perché si costruiranno, saremo in grado, già oggi ci sono piattaforme che sono in grado di costruire i profili di guidatore sulla base delle accelerazioni, sulla base dei comportamenti, della velocità, del rispetto delle norme stradali, del come l'automobile è manutenuta. Tutti questi sono elementi che possono aiutare a definire il profilo del guidatore e quindi dargli un rating. Più questo rating ovviamente è alto e più c'è sicurezza e quindi credibilità da parte sulla piattaforma del guidatore. In questo caso, per esempio, AIR è scritto, è una startup italiana interessante che proprio lavora con questo concetto, raccogliere dati anche attraverso automobili che possono generare dati perché hanno la loro centralina elettronica, che non sono nuove, attraverso un apparecchio che viene inserito all'interno dell'auto in maniera molto semplice, dove c'è la presa per l'elettrauto fondamentalmente, il quale con il Bluetooth può trasferire informazioni sul comportamento di guida e sul funzionamento dell'automobile. Anche sul mio telefonino. Sul tuo telefonino, appositamente sul tuo telefonino, con un'applicazione, il tuo telefonino incomincia a raccogliere le informazioni della tua auto, anche di un'auto che ha 10 anni o che ha 12 anni. Per cui in realtà questi dati esistono e si stanno trovando le maniere per estrarli, utilizzarli, interpretarli e poi monetizzarli. Questo è interessante. Sabrina, voi utilizzate dati e come li utilizzate? Come raccogliete questi dati? Allora, noi oggi raccogliamo tutti i dati degli spostamenti che avvengono attraverso la piattaforma. Questo ci permette poi di capire anche dove c'è più richiesta di passaggio e dove c'è più disponibilità di conducenti. Il volume di dati che oggi raccogliamo ovviamente è ancora piccolo perché siamo una realtà piccola, però quando, come noi ci aspettiamo, questo diventerà un servizio molto più utilizzato, un servizio di massa, saranno poi dati che potranno essere anche messi a disposizione delle amministrazioni locali per riuscire poi a creare a migliorare la complementarietà tra il servizio pubblico e un servizio di carpooling privato come il nostro, proprio per andare a colmare quei buchi di offerta e offrire ai cittadini le migliori possibilità di spostamento in città in base alle loro esigenze. Senti, visto che la vostra è una piattaforma software, che cosa vi vincola nell'aprire in altre città? E allora, una piattaforma software, è vero, che funziona peraltro anche molto bene, però le persone per utilizzare il servizio devono conoscerlo, quindi il limite vero è far sì che tutti quanti, che tante persone conoscano il servizio, perché poi è necessario che se ci sono i passeggeri devono esserci anche conducenti che danno il passaggio, quindi bisogna creare un volume di persone disponibili a condividere l'auto. Quindi non potete aprire in 10 città contemporaneamente, questo è il motivo. Sì, giusto. Pepe. Un ultimo commento, Enrico, uno sguardo al futuro. Sì. C'è una bellissima realtà italiana, una startup, si chiama OS Vehicle, che è un po' come Ikea, ti permette di comprare il tuo kit di auto elettrica e di montartela in un'ora. Questo magari sarà uno dei futuri, degli scenari futuri possibili, dove ti comprerai l'auto, la monterai e deciderai di cambiare scocca a seconda se fuori piove e quindi hai bisogno di coprirla o hai bisogno di una spider. Sì, c'è negli Stati Uniti una società che ti permette di stamparti in 3D i pezzi dell'automobile. Bene, io ringrazio Pepe Model per essere stato con noi, a presto, ciao. Grazie Enrico. E anche Sabrina Vinella, a presto. Grazie, ciao. Oh, aggiungo una notizia, beh, una buona notizia potrei dire, perché gli amici di Zego offrono 5 euro per tutti gli ascoltatori di 2024 che attivano l'applicazione. Ovviamente sono più avvantaggiati quelli che stanno a Milano e a Torino, dove il servizio è attivo, ma se non siete di Milano o di Torino e prima o poi passate da queste due città, potrete presto magari provare questo servizio utilizzando il codice ZEGO 2024, quindi ZEGO scritto come lo pronuncio, 2024 in cifra, vi verranno accreditati 5 euro di bonus per utilizzare il servizio ZEGO. È un regalo che ci hanno fatto e quindi noi prendiamo atto e ve lo comunichiamo molto volentieri, molto, molto felici siamo di questo. È tutto per questa puntata di 2024, come sempre grazie per aver utilizzato il podcast, la nostra versione super podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana, non andiamo mai in ferie, cambieremo il formato durante il mese di agosto, ma continueremo a produrre puntate nuove per 2024. Appuntamento alla prossima puntata.